Radio 24. Libera la voglia di fare. Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Ma ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Spazio per prendersi campo Miguel Veloso, Handanovic attraversa Pandev, 1-0 per il Genoa, l'uomo del triplete non esulta. Candreva sul dischetto perché è uscito Mauro Icardi contro la Manna, va Candreva e la Manna para il rigore, la Manna para il rigore a Candreva, la Manna para il rigore a Candreva, si rimane 1-0. Pandev in fuorigioco chilometrico, però non c'è neanche Handanovic, l'uomo più avanzato Pandev che la mette in porta. A gioco fermo, Mannamano dice che basta così. Tre punti d'oro per il Genoa, targati Pandev e Lamanna. Il Genoa vince, torna alla vittoria dopo aver battuto Juve e Milan in casa. Batte pure l'Inter, si avvicina alla salvezza, ma le altre sono lì. Nessuno molla, non molla l'Empoli, non molla il Crotone. Tutto ancora da definire. Non molla l'Empoli, non molla il Crotone, non molla il Genoa che prima di questo pomeriggio aveva vinto una partita contro l'Empoli nelle ultime 17 giornate. Segnatevi questo numero, una partita nelle ultime 17 giornate. L'unica che molla è l'Inter, che perde la quinta partita nelle ultime 6, ha pareggiato solo il derby 2-2 contro il Milan. Ha fatto 8 punti sui 30 disponibili dalla sera di Inter-Roma 1-3. Era il 26 febbraio, vi ricordate? Quella sera lì l'Inter aveva in mano il primo spareggio per pensare di poter agganciare il terzo posto e la Champions League. Da quella sera lì, quella sera compresa, 8 punti in 10 partite. 8 punti su 30 disponibili. Adesso vediamo cosa succede. Capiamo anche cosa succede questo pomeriggio a Marassi. Dopo aver scoperto nel dopo partita di Fiorentina-Inter che Pioli aveva pensato anche a un passo indietro, l'Inter continua a non reagire dopo quella sera, ha perso in casa col Napoli, ha perso oggi 1-0 a Marassi contro il Genoa, una partita in cui ha anche sbagliato un calcio di rigore con Candreva, ma io credo complessivamente ha perso perché ha meritato di perdere. Vorrei anche sapere da voi 800 24 00 24, qual è la temperatura dei tifosi dell'Inter. Io faccio fatica a mettere in fila le responsabilità, continuo a pensare che in testa ci siano sempre le responsabilità di chi va in campo, prima ancora forse quelle della società per come è stata gestita tutta la stagione, ma quando una squadra crolla così qualcosa si può chiedere anche all'allenatore di turno, in questo caso Stefano Pioli. Ciccio Valenti, ciao. Ciao Giovanni, beh intanto da dove vuoi partire? Dalla responsabilità più grossa è da chi pronuncia ancora il nome Inter riferito a questa squadra. Questo è un muletto, non ha niente a che vedere con l'Inter, il muletto per la prossima stagione deve essere totalmente differente, ma totalmente differente in tutto, cioè in tutto. Questo è un progetto fallimentare, per cui io l'ho appena scritto su Twitter, quando loro scrivono gridano dalla curva fuori coglioni, ho il terrore perché si svuota tutto. Cioè il rischio è quello, che possano uscire dal campo, che possano uscire dalla tribuna, dalla panchina, perché la situazione è micidiale. Cioè uno questo è un progetto che è costato più di 100 milioni di euro. Capito. Fortunatamente chi è la proprietà ne ha e quindi ha la possibilità di avere un muletto da 100 milioni, ma deve assolutamente essere totalmente un'altra cosa. Ma a partire da chi, io dico, da chi pensa alle scarpe per questo campo? Sono scivolati tutti, cioè il momento in cui segna il Genoa scivola Andreoli davanti, ma voi avete mai visto una cosa simile? Avete mai visto litigare per un rigore per sbagliare? Cioè io immagino che uno dei due volesse proprio sbagliare, ma ci sono delle cose che sono, però ripeto, è soltanto un muletto, cioè non mi preoccupo da questo punto di vista perché sarebbe veramente drammatica la situazione. No, io invece credo, Ciccio, che lo dico a te, lo dico in generale ai tifosi dell'Inter. Cioè, qualche preoccupazione ci deve essere, perché non si possono mai cambiare. Tu dici questo è un muletto, non si possono cambiare 15 giocatori in un'estate. Ma mettici un Conte, ma mettici un Simeone totalmente differente. Ma secondo te Conte e Simeone possono permettersi di avere dei direttori sportivi che vanno a dire che l'esito della stagione indipendente dai risultati. Ma dove siamo? No, però io penso che in estate difficilmente chiunque farà il mercato, ma sarà ausilio, perché al rinnovo potrà cambiare 15 giocatori. Ma non è detto che sarà ausilio, perché se arriva Conte, quando arrivò Conte alla Juventus non fecero il mercato quelli che avevano fatto i rinnovi dei contratti prima. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma qui stiamo parlando di un muletto, stiamo parlando di una cosa che non è l'Inter. L'unica cosa che è l'Inter sono i tifosi, quegli splendidi personaggi che sono andati a Genova, che comunque erano 70.000 settimana scorsa, che erano 49.000 con la Sampdoria. Ma questa è gente che veramente va venerata, questa gente va venerata, non questa società, e non sto parlando di proprietà, non questa società, non questo triunvirato lassù in cima delle meraviglie. Ma di che cosa stiamo parlando? Questo è nulla, questo è nulla. Questo, ci auguriamo che nessuno di questi siano in campo. Icardi è un ottimo centravanti, ma è un pessimo capitano. Possiamo dirlo, gridarlo al mondo? Un ottimo giocatore che fa i gol, ma un pessimo capitano. Oggi è stato cambiato, è entrato Palacio nel momento della difficoltà, nel finale non l'ha neanche presa benissimo. È come se una cena togliessero Ciccio Valenti, mettessero Piero Fassino per finire gli avanti. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, è assurdo, tutto è assurdo. Quindi questo è soltanto un muletto. Io voglio pensare che questo sia soltanto un muletto, che non abbia nessuna traccia rispetto all'Inter dell'anno prossimo. Ma l'Inter non dell'anno prossimo a maggio, l'Inter l'anno prossimo tra un mese e mezzo, tra un mese, tra 20 giorni, domani, stasera stessa, ma basta. Come spieghi che questa squadra per 4 mesi ha viaggiato quasi a ritmo scudetto? Lo dicevano in numero. Sì, ma dai, ma per favore, a ritmo scudetto, nel momento in cui ci sono state le partite quelle importanti con la Lazio e con la Roma, non c'è stato il ritmo scudetto, Giovanni, dai. Ma per favore, mettete dentro la primavera, ma questa gente che non è degna di questa squadra, non è degna di questa storia, non è degna di questi tifosi, dei colori, ma di cosa stiamo parlando? Ripeto, è un muletto, sono comparse, è gente che così controfigure, poi entreranno i giocatori, entrerà l'allenatore, entrerà un direttore sportivo vero, non sta gente qui, questa stratificazione di anni, di assurdità, ma veramente, ma chiedete scusa ai tifosi, ma chiedete scusa a quelli innanzitutto che erano a Genova, ma chiedete scusa a tutti, questo è un progetto fallimentare in toto. Sì, bisogna capire chi sta in cima alle responsabilità di questo progetto fallimentare. Aspetta, ti fermo un attimo, Ciccio, perché abbiamo il traffico. Ma ti tengo lì, c'è chi scrive tutto questo disastro, io lo sottoscrivo, 349-238-6666, sms, whatsapp, tutto questo disastro non si risolve in una sola estate, e questo lo penso anch'io, perché qui non è solo un problema mentale, non è certamente un problema fisico, c'è anche evidentemente un problema tecnico. Vedo su Premium Riccardo Ferri, e dopo lo avremo, lui che è uno che di Inter, insomma, ne ha vissute anche di Inter difficili, con contestazioni come quella che stanno riservando in questo momento i tifosi andati a Genova alla squadra, contestazione dei tifosi dell'Inter, mi segnala Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, anche con cori venduti, e poi insomma cercheremo anche di capire che cosa succede nei prossimi minuti. Ciccio Valenti resta lì, 800 24 00 24, aspettiamo Pioli, traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Allora, 800 24 00 24, vi prenotate per intervenire in diretta, vi aspetto qui fino alle 19, poi arriva anche Pierluigi Pardo per un'ampia pagina dedicata poi anche a tutti gli altri temi di questa domenica. Parleremo anche di motori col Gran Premio di Jerez della Frontera in Spagna. Sto rivedendo le immagini di Cardi che va in panchina poco convinto della sostituzione, le immagini di Candreva e Gabigol che discutono prima di battere un rigore che Candreva si fa parare dalla mano. La mano è un ottimo pararigori, lo ha dimostrato nelle ultime due stagioni, però il rigore di Candreva è stato oggettivamente tirato male. Mi permetto un secondo per salutare Vincenzo Campitelli, molto carino, che ci ascolta sempre da Busan in Corea del Sud. Lui, come tutti gli altri che ci ascoltano dall'estero, sono con Ciccio Valenti. Ti giro alcuni dei messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. C'è chi dice che scrivono, c'è chi scrive che giocano apposta per perdere, non ci sono altre spiegazioni. Ma no, sono scarsi. Io non credo. Ma no. ma non arrivano neanche a queste finezze, cioè non arrivano neanche a pensare a giocare per perdere, cioè non è gente che può pensare un qualcosa per poter fare un qualcosa di contrario. Ma non scherziamo. Questa è una squadra costruita malissimo, gestita malissimo, dove c'è un capitano che non è un capitano, è un ottimo giocatore, ma non è un capitano, diciamolo definitivamente, dove c'è un vicepresidente che è la storia dell'Inter, l'immagine più bella della storia dell'Inter, ma che non è un vicepresidente. Possiamo dirla tutta, che finalmente abbiamo la proprietà, sì. Che è la proprietà che ha gli occhi feroci di Zio Zhang, e questo è soltanto un muletto. Quando però possiamo Zhang, anche dire che la proprietà timoni, l'estate scorsa, insomma, qualche disastro l'ha combinato. Chi, scusami? La proprietà, affidando ad esempio il mercato all'inizio a qualcuno. La proprietà è arrivata a fine giugno, cosa può fare la proprietà? No, perché io prima citavo gli oltre 100 milioni spesi, non tutti in maniera funzionale e non tutti da ausilio, se vogliamo proprio essere pienamente sinceri. Sì, vabbè, ma poi dopo ci sono le responsabilità degli altri. Nel senso, ma cos'è il problema? Cioè, nel senso, il problema adesso cos'è? Fare il processo continuo ogni settimana a quello che sta succedendo o pensare qual è il futuro? Allora, se pensi qual è il futuro, il futuro è tutti via. Il futuro è assolutamente, il futuro è questo progetto fallimentare. Poi non so chi ha la forza. Ma quanti ne salvi di quelli che hai visto oggi in campo? Quanti ne salvi? Ma di chi? Di calciatori? Sì. Non ho idea, voglio soltanto che arrivi un allenatore alla Conte, alla Simeone, uno che ha i maroni e che possa dire io salvo questo, questo, questo. Poi se a lui pensa che sia andato a salvare, ben venga, ma non mi permetto io di dire chi può. Per me non esiste nessuno che possa essere parte di un progetto vincente. Cioè non vedo giocatori vincenti, non vedo giocatori determinanti, gente che ribalta la situazione, ma non vedo neanche società, non vedo neanche personaggi così. Ascolta. Ma questi se la raccontano tra loro, questi continuano a dire vogliamo pensare positivo. E cosa penso? Io mi metto davanti allo specchio e dico guarda, divento magro, ora sono positivo. Il problema è che dopo 3 minuti allo specchio vado davanti al frigorifero. Ma che cazzo, ma di cosa stiamo parlando? Questa è gente che non esiste, è un muletto dell'Inter, non è l'Inter. Claudia da Teramo, Claudia. Buonasera. Vai. Buonasera, senti, io vorrei, l'ultima volta ho telefonato 2 anni fa, e quando arrivò Mancini, 2 o 3 anni fa, e praticamente, no, per fare la profezia, però io l'Inter la seguo da 40 anni, diciamo, sì. Da quando ero piccolina, dai tempi, sai perché faccio il tuo periodo? Perché per Mazzola, io ho 58 anni, diciamo che a 10 anni. Chissà avevo 10 come anni. Sei bella, chissà come sei bella, che sei cresciuta con i nostri colori. Io sono cresciuta, io so perfino un serpente nero azzurro, lo dissi pure a Pierluigi Pardo, c'è un serpente, bravo. Un peluche che mi regalò mio figlio da una gita, e l'Inter quell'anno vinse le triplette, adesso diciamo che me ne posso, dico sempre a mio figlio, c'è un figlio che fa il tifo per la Fiorentina e da bambino è rimasto con la Fiorentina e io sono contenta così. Allora dico sempre, lui mi rifrega perché l'Inter perde sempre ultimamente. Allora cosa vuoi dire, Claudia, che poi abbiamo Simone Inzaghi in diretta, cosa vuoi dire, Claudia? Volevo dire che mi dispiace per i tifosi dell'Inter, ma l'Inter non vincerà più, lo dissi anche 2 anni fa, perché la squadra, oramai la società non c'è più una società italiana, e la squadra ogni anno si cambia sempre allenatori, giocatori, può arrivare anche Cristiano Ronaldo. Abbi fede, Claudia, pensa al biscione nerazzurro, pensa al serpente nerazzurro. Sì, ma io gli allenatori si cambiavano anche prima, cioè, non è che Moratti di allenatori non ne cambiasse ogni tanto. Grazie a Claudia, grazie anche a Ciccio Valenti, ciao Ciccio. Ti saluto riprenditi. Giovanni, saluto Michele Plastino, però gli faccio sentire subito Simone Inzaghi e i microfoni di Premium. Livello mentale positiva, pronti e via, Lazio in vantaggio che sblocca la partita. Ma sì, insomma, i ragazzi sono stati superlativi, hanno avuto un grandissimo approccio, non era facile, insomma, giocavamo contro una Sampdoria che abbiamo visto tutti, che ha fatto un buonissimo campionato, però insomma di fronte si è trovato una Lazio che, nonostante gli ultimi risultati, il derby vinto, non era assolutamente appagata, voleva vincere e ha vinto con pieno merito. Questa è una allora, questo è Simone Inzaghi, prime parole. La Lazio oggi è in Europa League ufficialmente, Michele Plastino, cui intanto faccio i complimenti per la nomina a direttore di Radio Sportiva. Ciao Michele, grazie. Buon pomeriggio. Grazie a voi. Grazie. Lazio che è esattamente il contrario come fotografia di quello che è l'Inter in questa stagione. Ah, certamente, tra l'altro c'è veramente un piccolo grande capolavoro di Inzaghi, perché senza farla lunga, ma insomma, da come era tutto partito, io credo che il risultato di Inzaghi sia un risultato strepitoso. Guarda che la partita di oggi non era semplice dopo essersi ubriacati di gioia dopo il derby, invece l'approccio è stato fantastico, la Lazio ha chiuso la partita così, per come l'ha preparata e per come si è fatta trovare viva e ancora avvelenata, malgrado la bellezza per la Lazio del derby. Quindi importantissimo il lavoro di Inzaghi. Ma Inzaghi oggi che allenatore ti ricorda? Noi parlavamo settimana scorsa, facciamo questo paragone con Allegri, ovviamente Allegri d'inizio carriera. Beh sì, nel senso che c'ha delle cose di Allegri, nel senso che è un ragazzo che sa stare molto al suo posto, anche in comunicazione, è molto riflessivo. Poi quando c'è da arrabbiarsi si arrabbia, e quindi in questo richiama Allegri, che ovviamente ha una esperienza adesso straordinaria e lo dimostra sul campo. Però anche Inzaghi è attento ai dettagli. Stavo pensando oggi, quando ho rivisto di nuovo il 3-5-2, no? Contro la Sampdoria, che mi sembrava strano perché lo alterna molto con il 4-3-3 con alcune squadre, il 3-5-2 con altre, perché ho pensato che nel dettaglio lui stesse abituando ancora di più a questo sistema la Lazio, in virtù della finale con la Juventus, dove al 99% gioca con questo sistema. Quindi pensa a che sono andato a pensare entrando nella mente di Inzaghi, perché lo stimo molto per questa valutazione dei dettagli. Io ho pensato che la finale anticipata al 17 maggio non è un favore alla Juve, cioè in questo momento la Lazio è la squadra che gioca il miglior calcio d'Italia, Napoli a parte, il Napoli dal punto di vista della qualità, ma insomma questo è un discorso che abbiamo aperto e chiuso più volte e non è questo il momento, però la Lazio oggi attraversa un momento di forma straordinario. Sono d'accordo con te, perché tiene viva ancora la Lazio nel tempo più breve, in questo meraviglioso momento che sta vivendo lei. È anche vero che magari dopo poteva esserci per la Juventus un appagamento, ma sai, questa storia del triplete, fammela chiamare tripletta in italiano una volta ogni tanto, è un motivo di grande stimolo per la Juve, qualsiasi giorno si giochi, sai? Io credo che non la sottovaluta la vittoria in Coppa Italia la Juve, per cui anzi in questo momento credo veramente Juventus-Lazio sia una delle partite che garantiscono spettacolo, intensità, bellezza, forse più di qualsiasi altra partita, adesso al di là appunto di quello che hai detto giustamente sul Napoli. Volevo sapere cosa ne pensi invece del crollo dell'Inter. Io faccio fatica a mettere in fila le responsabilità, perché evidentemente sono responsabili i giocatori, a questo punto anche Pioli, perché un allenatore che fa i risultati che ha fatto lui negli ultimi due mesi qualche responsabilità ce l'ha. Io continuo a ritenere che in cima a tutto ci sia la responsabilità della società per come ha impostato questa stagione. Errori di gioventù, anche fisiologici, comprensibili per una nuova proprietà, però errori che hanno inciso. Ma è indiscutibile. Io, siccome ritengo l'Inter un esempio di come man mano che passeranno gli anni sempre di più va valutato l'aspetto psicologico di gruppo, prendo l'esempio purtroppo per l'Inter in negativo sulla labilità dell'Inter, uso dei termini impropri perché sono termini che purtroppo significano anche mali piuttosto importanti, però ecco, ritengo che l'Inter sia non bipolare ma tripolare e in un chiarissimo esaurimento nervoso, ti ripeto, nel pieno non rispetto fisico, nervoso dei non per fisico, me è assolutamente di testa, di gruppo, come se fosse una persona sola, no? Un'entità sola fatta di mille persone, e questa entità dell'Inter è un'entità malata mentalmente, tra virgolette, c'è qualcosa che proprio non va nel gruppo dal punto di vista mentale, cioè non c'è coesione, non c'è un momento di continuità. È anche maniacale, perché poi in alcuni momenti, con tutti gli allenatori avuti, in questo momento li ha avuti positivi, no? Penso alla partita con la Juve, penso insomma ai derby, cioè ci sono stati dei momenti positivi, per cui la squadra tutto sommato non è scarsa. E allora dov'è? Non è neanche fisica la cosa, perché alterna prestazioni, quindi ritengo, ti ripeto, che sia un alone che circonda l'Inter da un punto di vista veramente psicologico. Grazie Michele. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie Michele Plastino. Buon lavoro. Io mi ha telefonato Ausilio. Sì. Sono nuova allenatore dell'Inter. No. Ho fiducia, molta fiducia. Ma questa cosa però non è vera, dobbiamo dirla. Non è vero che Ausilio ha richiamato De Burra. Bisogna migliorare. Io sempre voglio vincere con mia filosofia, passo per passo. Passo per passo, però mancano tre giornate ed è finito il campionato. Inter è fuori dall'Europa, Frank. È fuori dall'Europa. Inter in preliminari di Europa League, sì. Preliminatorie. Non è così. Grande fiducia. Grande fiducia. Inter. 8-0-0-24-0-0-24. Non è vero, ma aspettiamo anche di sentire Pioli. Adesso arriva Pierluigi Pardo. Parliamo anche del derby Juve-Toro di ieri sera. Torniamo subito. Sì. Tutti convocati. Tutti convocati. Il centrocampo del nostro avversario, non solo ha qualità ma anche fisicità, di avere un elemento in più, dinamico, con capacità di pressare, essere aggressivo e anche poter lavorare sulle due transizioni. Questo è Paolo Sosa dopo il 2-2 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, microfoni di Premium Sport. Ciao Pierre. Come va? Bene, bene, bene, benissimo. Processone aperto all'Inter. Ti giro alcuni dei messaggi che stanno arrivando a pioggia. 349-238-6666, sms, whatsapp, oppure 800-24-0024. E vi aspetto, chiamatevi, prenotate per intervenire da qui alle 19. Ti dicevo alcuni dei messaggi. Finché l'Inter non si strutturerà in maniera compiuta come società, con dirigenti capaci, dotate di pieni poteri, con conoscenze nelle stanze che contano, il calcio italiano sarà tutto inutile. Questo è Giacomo. E poi un altro amico che dice: siete sicuri che non ci sia un'indicazione societaria a non andare in Europa con i preliminari? Ancora i dirigenti dell'Inter prendano appunti sulla gestione Lotito di quest'anno. Poi Pioli ha ripercorso in tre quarti di stagione la traiettoria che ha avuto nella Lazio in due anni. Ancora un altro: sono juventino, non ho visto la partita, ma dai commenti capisco che ha avuto ragione Mancini, uno che ha un accenno di attributi e non ha voluto partecipare alla catastrofe di questa stagione. Io non lo so cosa pensi tu dell'ennesimo crollo dell'Inter. Io penso Mancini abbia fatto bene a togliersi da una situazione che evidentemente aveva già capito che non era quella giusta. Il sospetto, permesso che, tanto per essere chiari, nessuno va in campo per perdere la partita, questo lo precisiamo, perché sennò sarebbe una roba da illecito sportivo e non lo penso, non ci sono le prove, ci mancherebbe altro. Quindi parliamo però di motivazione, ecco. Dirti che l'Europa League e la qualificazione soprattutto all'ultimo posto per l'Europa League faccia gola e sia così motivante, ecco, questo mi sembra di no. Questo vale anche per la stessa Fiorentina, che ha fatto un punto in due partite. Però per evitare il sesto posto, Pier, una squadra non si può suicidare con le sue mani. Un allenatore, gli abbiamo dati prima i numeri: 5 sconfitte su 6 partite, dal famoso Inter Roma 1-3, 8 punti su 30 disponibili. Siamo oltre la volontà di evitare magari un sesto posto scomodo. No, siamo proprio ai confini siamo ben oltre la figuraccia, diciamocelo apertamente. Insomma, è veramente una situazione imbarazzante, anche perché il Genoa, con tutto l'affetto ovviamente per quello che ha fatto in questa settimana, per quanto fosse importante questa partita, è una delle squadre più scombinate delle ultime giornate, quindi aveva veramente un sacco di problemi, e ciononostante l'Inter si è buttata via anche oggi. Quindi ripeto, non è un pensar male, io non penso mai male, anche a costo di essere ingenuo, ma non credo, sarebbe assurdo che l'Inter scenda in campo per perdere. In questo momento a maggior ragione non se lo può permettere dopo tutti i casini e le polemiche, ci mancherebbe altro. Però ecco, dirti che io abbia visto la motivazione, il coltello fra i denti, la ferocia che una squadra che ha un obiettivo importante deve avere, io questa non l'ho vista, insomma. Il che credo sia doppiamente preoccupante. Alessandro da Firenze. Alessandro, buonasera. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie a te. Chiamo da Firenze, sono inusualmente un tifoso juventino. E praticamente volevo sottoporvi due domande. Allora, una, e siccome io ero quelli contro Allegri e pro Conte, dopo questa gestione d'Allegri, sono onesto, mi devo ricredere, anche se non mi fa esultare per il bel gioco Allegri, però riconosco un'abilità nel leggere le partite che Conte non aveva. Cosa numero due, non capisco perché anche dopo il fallo di ieri sera, avendo visto la partita, si dice sì, per me era sulla palla l'intervento, sì, però porta via tutto. E perché ci si concentra su quello e non magari sul fallo di mano della scorsa partita? Ma guarda, a Bergamo, Alessandro, non capisco, perdonami, sul fallo di mano mi sembra ci si sia concentrati a sufficienza, tra l'altro anche elogiando Allegri per la gestione comunicativa del post partita. Ieri io sono convinto che non fosse espulsione, poi lo chiediamo a Massimo Zampini che ci ascolta già. Prima però c'è Pioli, microfoni di Premium Sport, sentiamolo. Oggi abbiamo giocato sicuramente per fare la partita, sicuramente per condurla, rischiando poco, ma poi quando hai avuto le occasioni e non riesci a segnare, dopo sono partite che diventano difficili e gli episodi ci hanno condannato. È chiaro che potevamo pareggiare, ma c'era da andare in vantaggio quando abbiamo avuto le occasioni per andare in vantaggio, e poi la partita sarebbe cambiata. Purtroppo non ci siamo riusciti e torniamo ancora una volta a casa a mani vuote. Adesso, diciamo, negli spogliatoi avete avuto un primo confronto, magari vi siete già parlati, lei sente di avere ancora il controllo della situazione? Ma non è questione di parlare dopo lo spogliatoio o dopo la partita o nello spogliatoio, è questione che siamo tutti convinti che possiamo fare di più e che dobbiamo fare di più, e che la partita l'abbiamo persa perché negli episodi non abbiamo messo quell'attenzione necessaria, e questo è un peccato, e adesso dobbiamo solamente pensare a lavorare il meglio possibile, perché è chiaro che mancano ancora tre partite e non vinciamo troppo tempo. Purtroppo oggi era il risultato che volevamo, l'unico risultato che volevamo, e non ci siamo riusciti. Allora, questo è Pioli. L'Inter non vince dal 12 marzo, Inter-Atalanta 7-1. Io mi prendo buono di tutto quello che abbiamo sentito, Pier, una frase, e non è che bisogna star qui a parlare nello spogliatoio. Tutto il resto di Pioli io onestamente non lo capisco, anche avendo seguito la partita di oggi mi pare che l'Inter insomma abbia fatto poco per vincerla, no? E che sia un po' la fotografia di questo momento. Sì sì, assolutamente. Ripeto, la ferocia agonistica è un'altra cosa. Immagine simbolo è il rigore di Candreva, premesso che poi i rigori si sbagliano, non è che adesso bisogna mettergli una croce addosso, però insomma, cioè, hai un rigore che può in qualche modo riscattarsi almeno parzialmente da una figuraccia, e lo tiri veramente con un atteggiamento molle, che non è da Candreva oltretutto, che è un giocatore di grande temperamento, insomma. Ripeto, io non ci vedo mai niente di male, non c'è niente di male, ci mancherebbe altro, però non c'è neanche quel livello. No, non c'è stata la risposta emotiva a tutto quello che sta succedendo. Saluto Massimo Zampini, ciao Massimo. Ciao, ciao a voi. Facciamo due chiacchiere sul derby di ieri sera, a proposito di ferocia. Sì. Jajic 1-0 Toro, la mette nell'angolo, 1-0 Toro, la gioia di Jajic, la ripartenza di Maggio che c'ha qua, lo anticipa, attenzione, doppio, Mihajlovic va dalle parti del quarto uomo rosso, con i due gialli per Acqua, Mihajlovic espulso, Acqua espulso, prende la palla, Benassi ci mette la gamba, ma ancora Pjanic, altro tocco dentro verso Higuain, il pareggio della Juve con Higuain al minuto 92, è palla pulita, tanto è vero che lo stesso arbitro per 5-6 secondi non ha fischiato nulla, poi dopo improvvisamente è cambiato, per questo che sono andato da quarto uomo a chiedergli perché non gli dice che non era fallo, poi dopo quando mi ha buttato fuori, poi normale, non è che gli potevo dare un bacio. Ognuno si comporta e fa quello che ritiene giusto fare. A Sinisa le posso fare solo complimenti per come ha presentato il Torino e che partita ha fatto stasera. Mi dispiace che mi sono lasciato andare, c'era un po' di carica agonistica, ma c'è amarezza per questa mancata vittoria, ma c'è orgoglio per la prestazione. Un club si può anche battere, ma la storia non si può battere. Noi oggi in campo abbiamo messo anche la nostra storia. Il calcio non è una scienza esatta, ci sono delle partite in cui crei meno e vinci le partite, delle partite in cui come stasera crei molto e non porti a casa la vittoria. Devo fare complimenti a Torino perché ha fatto una partita tosta, giusta, maschia. Il pari ci consente ora di avere solamente dallo scudetto, dall'obiettivo del sesto scudetto, solamente una vittoria o 3 punti. Questo è il riassunto di quello che è successo ieri. Pierluigi Pardo, Massimo Zampini, 800 24 00 24. Togliamoci subito, caviamoci il dente, via il dolore. Era o no da espulsione, da doppio giallo e da espulsione l'intervento di Acqua? Massimo? Allora, secondo me ci sono brevissimamente 2 temi. Uno appunto sul fallo, ovvero sia ha toccato la palla, è verissimo e lo sappiamo e l'abbiamo visto. Secondo me poi non è che si possa entrare così, abbiamo visto anche i regolamenti, li conosciamo, sulla negligenza, l'imprudenza con la vigoria, questo secondo me è un po' imprudente, è al di là del fatto che tu prenda la palla. E però questa è roba da moviolisti, per me è complesso. Io posso dirti che io da tifoso, se vedo il mio giocatore ammonito, siamo in vantaggio 1-0, partita importante, a metà campo si mette a fare questa entrata, io personalmente me la prendo con lui. Io poi ho giustamente il tifoso del Toro, pensa al furto della vita e non c'è nessun problema per me. Sì, anche se sul campo io posso anche capire, sì, Pier, poi la reazione di Mihajlovic, che poi va oltre e verrà squalificato, giustamente, perché c'è un limite a tutto. Però posso anche capirlo, Pier. Sì, Mihajlovic era già arrabbiato nel primo tempo per una serie di cartellini. Comunque, così poi ci togliamo l'aspetto mobilistico. Sì, almeno lo tiriamo via, perché evidentemente ecco, Oggi tutti parlano di quello. No, c'è anche chi ti dice, chiaro, ieri tu hai detto più volte in telecronaca che non era da ammonire, dovresti conoscere il regolamento. In realtà no, il regolamento tutti lo usano quando gli fa comodo. Evidentemente no? Questa persona ha una memoria molto serena, nel senso che io l'ho visto, l'ho commentato, c'è stato sentito anche adesso, e Di Gennaro ha detto subito che era palla e io ho detto che era palla. Poi ci sono tornato varie volte perché l'abbiamo rivisto varie volte e io ho avuto un atteggiamento molto... onestamente molto dubbioso, nel senso che è una situazione al limite e non è che uno vuole fare 0-0, ma è una situazione al limite, nel senso che l'intervento è nettamente sul pallone, poi Cesari ci ha detto che non era cartellino. Sicuramente è un intervento di una vigoria e di una, un intervento spericolato, quindi d'accordo con Zampini sul fatto che in ogni caso c'è un errore di valutazione e di troppa foga, soprattutto a metà campo da parte del giocatore, c'è un rischio inutile. Sicuramente un intervento imprudente, sicuramente un intervento ruvido, è anche vero che l'anticipo sul pallone è piuttosto netto. Quindi io ti dico che 20 ore dopo lo continuo a considerare un episodio sul quale si può discutere, come purtroppo, aggiungo purtroppo, molti episodi del calcio, nel senso che non è... Adesso io ho una timeline in base di gente che continua a discutere uno con l'altro, e da ieri sera io continuo a ricevere, mi mettono in copia queste conversazioni con gente che si insulta. Ma che vi insultate? Ma questa è la classica situazione al limite, è la classica situazione, per me, ripeto, è più no che sì, nel senso che un secondo giallo... No, ma tra l'altro anche perché pure il primo era discutibile, se vogliamo. Ecco, quindi complessivamente è no. Facciamo X Factor, complessivamente è no. Complessivamente secondo me è no, però è evidente che non è una roba completamente inventata. Cioè comunque una situazione, cioè un eccesso di foga nell'intervento di Acqua c'è. Quindi non è che se l'ha inventato l'arbitro, sì, ha giudicato, certo, secondo me, in una maniera un po' severa, un intervento che era un intervento sicuramente pulito sul pallone, ma ruvido. Questa è quella è la classica cosa fatta apposta per far discutere e che lo diciamo, così sgomberiamo il campo da qualsiasi discussione. L'anno prossimo con la VAR, il VAR non cambierà, perché la situazione, certo, di ieri sera il VAR non entrerà. Abbiamo il traffico, io vi fermo lì. Massimo Zampini, Pierluigi Pardo, 800 24 00 24. C'è chi dice gli arbitri allo stadio sono condizionati dal pubblico, per carità, possiamo dire e fare quello che vogliamo e pensare. Traffico, torniamo subito. Convocati. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta. Tutti convocati. Tornando poi a Juve-Torino di ieri sera, c'è chi ci dice Casarina ha detto fallo e giallo, basta dire che se si prende il pallone va bene tutto, poi c'è chi ricorda Mandzukic ha ammonito all'andata, però usciamo da queste cose della moviola, c'è chi ci accusa di essere anti-juventini, per carità, siamo qui, facciamo tutto quello che volete voi. Io credo, Massimo Zampini, che quello di ieri di Allegri sia stato un rischio calcolato. Non a caso lui aveva chiesto i tre punti a Bergamo facendo giocare i titolari. Sapeva che questa era la partita, era il ventre molle della settimana, da tre partite in sei giorni della Juve. Sì, sono d'accordo con te. Ti chiudo un secondo il discorso Moviola, che a me interessa poco poi personalmente, ma per chiudere, non mi è parso nettissimo neanche il fallo di mano di Asamoah da cui è nato, cioè lui si appoggia ed è, secondo me non c'è nulla di volontario né di non congruo nel suo movimento, e aggiungo che secondo me non è che possiamo un anno fare l'inferno se si accerchia l'arbitro, perché lo fanno i giocatori della Juve nel derby, e l'anno dopo se quelli del Toro entrano in campo in 20 alla panchina non si dice niente. È una cosa che non si può vedere. La cosa secondo me è questa, anche riferito per esempio alla settimana scorsa, quando la Juve ha avuto un episodio arbitrale a sfavore, no? Quello di Bergamo. È esattamente una cosa che nasce, secondo me, dalla frustrazione delle squadre, una frustrazione legittima. Cioè la Juve si è potuta permettere a Bergamo di fare la bella figura di chi non protesta, perché sta gestendo il campionato e quindi la vive con una serenità. Ma io non credo nemmeno questo, Pier. Non credo nemmeno questo. Dopo i gol di Pjanic annullato a Milano, anche non è che la Juve abbia fatto l'inferno. Eppure sì, e lì lo scudetto non era vinto. Posso rubarvi due minuti a tutti e due? Voglio fare veramente un flash, lo ringrazio, lo saluto. Piero Chiambretti, ciao Piero, presente. Buon pomeriggio. Buongiorno ragazzi. Possiamo non fare la moviola con te? Possiamo? Sì, facciamola. Non fare la moviola. Io la farei. No, che parla. Vabbè, Perché è chiaro che è un errore. Purtroppo è banalissimo quello che dico, ma condiziona la partita. Poi la Juve poteva vincere. Ieri Mihajlovic, secondo me, alla fine è stato onesto, è arrabbiatissimo, e per carità, io l'ho detto fisiologico, però ha anche detto poi alla fine, insomma, che il pareggio ci stava. No, ma non solo, la Juve poteva anche vincere 5-0, però quando poi arrivi al 92esimo e ce l'hai fatta, ma porca miseria, ma è possibile. Infatti io vorrei chiedere al presidente della FIFA di togliere i supplementari nei derby, sia quelli di Torino ma anche quelli di Milano, perché penso che anche a Milano abbiano qualche problema. Ti piace, Massimo, come proposta questa? No. Al recupero del derby col Toro non rinuncerei mai per nulla al mondo. Speriamo particolarmente. Lo capisco. È la terza volta di fila, no? Siete un po' di frustrazione, sì, lo capisco. Io mi permetto di dire anche che secondo me però è brutto dirlo, essendo stato, diciamo, in questo senso avvantaggiato la mia squadra, però secondo me per come è andata la partita ieri non è stata particolarmente modificata da quell'espulsione. Cioè sono stati i primi 60 minuti di attacco Juve e ottimo Toro che provava a ripartire, e l'ultima mezz'ora uguale. Dare un uomo alla Juventus allo Stadium credo che per 45 minuti sia abbastanza, no? La Juve è più forte del Torino, però in una partita secca, un derby giocato in modo garibaldino, con un po' di fortuna come ci vuole in tutte le cose, quell'espulsione ha riequilibrato subito la fortuna, e quel meraviglioso gol di Ljajić che difficilmente si vede su un campo di calcio. Quindi io invece penso che quell'espulsione sia stata decisiva, specialmente perché il giocatore che è stato espulso era uno di quelli che faceva da diga, quindi nel momento in cui la squadra doveva difendersi per portare a casa il malloppo, ha perso il giocatore più rappresentativo della barricata. E poi il Torino comunque ha continuato a ripartire, senza creare grandissime occasioni, l'ha detto, però comunque dava la sensazione di Belotti ha fatto una partita di grandissimo sacrificio, probabilmente con l'uomo in più qualcosa. Ma quello che parla quello che parla è Pardo? Quello che parla è Pardo, sì. Ma con quale voce parla Pardo in questo momento? Perché lo sento come se fossi in un tombino, dov'è? No, adesso non puoi prendermi in giro, sai che c'è una querella sul mio telefono a Radio 24. Ah, tu sei al telefono. Noi siamo abituati, lui è al telefono, è al grammofono. Ho sentito la sua. Sì, lo ricordo, ma a fatica, no? Ho sentito la sua telecronaca su Premium mentre la stessa partita andava su Canale 5, e parlo della partita di Coppa dei Campioni, e sentivo la sua frustrazione, perché è chiaro che i tanti milioni erano su Canale 5 e non su Premium. Per una volta che Premium c'ha il partitone e Pardo può dare il massimo, tac, Piccinini. C'ero io. Piero, era uguale, era sempre lui. Magari faceva finta di fare Piccinini su Canale 5, però era sempre Luigi Pardo. Lo ascoltavo e pensavo che gli avessero messo una seconda voce su Canale 5. Vabbè, no, allora va bene. Senti, prima di salutarti, posso chiederti cosa ne pensi del titolo di Tutto Sport di oggi? Eroici, ha dedicato tutta la prima pagina al Toro dopo un derby, insomma, non è una cosa comune. Mi ha sorpreso perché diciamo che il Tutto Sport, per quanto sia un giornale stampato a Torino, ha più copie vendute ai tifosi della Juventus, quindi dare un titolo così forte al Torino è stato un atto di coraggio del Tutto Sport, quindi eroici quelli del Tutto Sport, oltre che i nostri invincibili. Grazie Piero. Grazie, ciao Pardo, ti bacio. Ciao, grazie a Piero Chiambretti. Non so se è piaciuto a Massimo Zampini Tutto Sport di questa mattina sulla prima pagina. Ma nulla contro il Toro, io so personalmente il Toro ha fatto la sua partita, forse ci ha un po' ecceduto, perché secondo me il Toro negli altri derby ci aveva messo spesso più in difficoltà, anche al di là del risultato. Sì, sono d'accordo, dei tre che abbiamo citato. Però per carità, grande rispetto, io non ho nulla contro il Toro, non mi è piaciuta la reazione un po' simonesca 98, insomma non è possibile, c'è questo clima infernale in cui si entra in campo in 20, no, in cui ma è esattamente quello, guarda, è quello che dicevo prima, cioè quando una squadra domina, come succede in questi anni alla Juve, quando ci sono degli episodi, e quest'anno ci sono stati degli episodi sfavorevoli alla Juve, la serenità, la gestione di questi episodi è nettamente migliore. Quando invece ci sono altre squadre che riescono a inserirsi attraverso una prestazione eroica, sì, sicuramente dal punto di vista strettamente difensivo e di compattezza, ieri il Torino ha giocato veramente una grande partita, non tanto sul piano della qualità offensiva, ma dal punto di vista, diciamo, del coraggio, del vigore, è stata una grande partita. E vedi una possibilità come quella, e poi arriva l'episodio che non ti piace, e le reazioni sono così. Però detto questo, sicuramente è auspicabile che tutti si controllino di più, cioè quello che ha fatto Mihajlovic, ma l'ha detto lui stesso, non è stato bello ieri, cioè doveva controllarsi di più. Sì, e giustamente quella cosa lì la pagherai con una squalifica, e credo che su questo non ci sia nulla da discutere. Abbiamo un minuto, mi dici in 10 secondi telegrafico Massimo Zampini se ti fa paura la Lazio in vista della finale di Coppa Italia? Beh sì, Lazio forte, sarà molto equilibrata secondo me come finale, e io non sono ancora tranquillo neanche sul Monaco, perché insomma si va là, si va a Torino e speriamo di non fare... Vabbè, questa è anche un po' di scaramanzia. Grazie, grazie Massimo. Ciao, ma neanche al 90esimo sul 2-0 per la Juve diranno che sono in finale. Dico che bisogna accettare le decisioni di arbitri con grande serenità. Bisogna accettare tutto questo, perché sennò. Hai capito, Pier? Bravo, Sinisa. Bisogna accettare. Ma cosa ha detto all'arbitro ieri? Così ricostruiamo al quarto uomo. Sì, ma non ha detto niente di particolare. No. Gli ho detto nipote di simpatico uomo. No, aspetta. No, ho detto cognato di onesto uomo. No. Ho detto figlio di buona donna. Ma non è vero. Figlio di buona donna. Torniamo dopo il GR. È tutto. Questa vicenda dei manichini appesi al Colosseo. Come gesto va condannato vedendo le immagini, le cose, però chi conosce il derby di Roma sa bene che lo sfottò non dura una settimana, ma addirittura anche mesi in certi casi, perciò vanno prese delle distanze da determinati gesti che non vanno supportati, ma nello stesso momento va capito anche quello che è lo scopo di questo sfottò. Tutti convocati. Oscar, mi aiuti? Eccomi! No, stai attento, prendila di lì! Ma cosa? È scivolosa! Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive e schiene dritte. Attenti a noi due, ogni giorno dalle 8:20 su Radio 24 con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura, semmai ne fa. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Il duello Macron-Le Pen si è trasformato nell'evento centrale della politica europea. La sfida francese divide gli osservatori e cattura le speranze dei politici di mezza Europa. In diretta da Parigi con inviati ed esperti, Radio 24 seguirà i momenti decisivi del ballottaggio. Speciale Eliseo con Gigi Donelli, domenica 7 maggio dalle 19 su Radio 24. convocati. L'arbitro mi sono avvicinato e ha detto: ma tu non devi parlare con il pubblico. Ho detto: no, tu non parli tu. Tu devi avere le palle per firmare la partita. Se ne ha parlato in tutto il mondo e valutando la situazione, è strano che a pagare per i colori razzisti è stato solo Montari. Forse si crea un precedente che può cambiare tutto nel calcio. L'episodio dei manichini, secondo me, non appartiene né ai tifosi della Roma, né ai tifosi della Lazio, né ai tifosi in generale che amano questo sport, ma fa parte di persone deviate. Chi ha parlato dietro? Io non ho sentito. Pronto? Non so stato io. Ho sentito qualcosa dietro. Chi ha parlato? Penalti a nessuno. Un insulto. Mi sa che ci sono, sì, problemi forse tecnici, ci sono delle interferenze dallo stadio. Benatia non eravamo noi, chiaramente, se si trattava di un insulto, però se ci sono problemi tecnici è meglio chiudere questo collegamento. Razzismo non è solo bianco e nero, razzismo sono anche, ci sono altri tipi di razzismo, anche zingaro, anche serbo di merda, anche quello è razzismo, no? Però comunque quelli che mi hanno chiamato zingari possono anche venire da me, non c'è nessun problema, me lo dicono in faccia e li aspetto volentieri. Gli dico anche dove abito, vengono là e sono a Principe di Piemonte. Vediamo se c'hanno le palle anche là. Affanculo. Oh, questo è un blob della settimana nera del calcio italiano. Poi per fortuna oggi si è tornato in campo. 800 24 00 24, c'è Pierluigi Pardo, eccolo lì Pier. Ecco, sì. C'è Matteo Marani, vice direttore di Sky Sport. Ciao Matteo. Ciao, buongiorno, bentrovati. Per fortuna che si è tornato in campo, anche se l'ultima cosa l'abbiamo sentita ieri. Tra l'altro, aperta parentesi, la Rai si è scusata ovviamente con la Juventus e con Benatia per quello che è successo ieri sera in onda, e poi stanno cercando di capire che cosa è successo, perché non si è nemmeno capito al momento da dove provenisse quell'insulto che giustamente ha fatto arrabbiare Benatia. Oggi Montari non ha giocato, è rimasto in panchina, Matteo. Tanto in generale mi sembra che ci sia un clima di eccessiva tensione, insomma, nel calcio italiano. Purtroppo ogni anno lo diciamo, ma ogni anno è un pochino peggio di quello prima. Dopodiché sulla vicenda Montari credo che si sia detto tanto, sì, di tutto più. Tutto il contrario di tutto, ma credo sia anche, sì, stato giusto oggi poi non farlo giocare, così come è stato sacrosanto togliergli quella squalifica che era un paradosso. Sì, è stato, io credo, eccessivo tutto. C'è stata ovviamente eccessiva la squalifica, che era grottesca addirittura, e eccessiva anche tipo il commento. C'è stato, insomma, si è addirittura esagerato su un episodio che è un episodio gravissimo di per sé, che ha suscitato molta reazione, ma insomma è un episodio che in un paese dovrebbe essere, come dire, combattuto in maniera quasi naturale e automatica. Questo però purtroppo non avviene. Pier. Ma allora, sono d'accordo, innanzitutto, vabbè, la squalifica era grottesca, non ci sono dubbi, e per una questione strettamente burocratica abbiamo fatto una figuraccia per qualche giorno a livello mondiale. Detto questo, l'episodio di Montari, lo dicevo l'anno scorso, lo di Bariscoggi, è un episodio strano, ma non strano che si sa che cosa si debba vedere dietro. Cioè, è successa una cosa che nel 99,9% dei casi i calciatori incassano, chiaramente non la giustifica, oppure fanno come Mihajlovic, che abbiamo oppure sentito. Fanno come Mihajlovic, esatto. Però ci sta, perché il razzismo è una questione talmente grande, talmente tremenda, talmente terribile, gli ha provocato così tanta sofferenza, che se anche una sola persona insulta e un giocatore, un ragazzo in quel momento si sente toccato, si sente scosso, non era oggettivamente puntato la settimana scorsa, l'arbitro non lo deve ammonire, ma lo deve ascoltare. Quindi questo secondo me è stato il punto di partenza. Io non mi unisco anche i tuoi tweet di settimana, sono d'accordo con te, ma danno fastidio, poi mi danno fastidio i processi mediatici, i social network, ma danno fastidio il processo mediatico, le social network all'arbitro, perché mi è sembrata veramente una cosa esagerata. Però secondo me l'arbitro ha sbagliato in una cosa, ha sbagliato nel non capire che il dialogo con il giocatore, quindi poi magari far messaggio con l'altoparlante, insomma parlare col giocatore sarebbe stato l'atteggiamento giusto, invece l'abbiamo fatto in maniera assurda. Sul resto, sì. Sul resto secondo me, se volete, poi facciamo questa riflessione, voglio sapere cosa ne pensate. Detto che non omettiamo il dettaglio delle dichiarazioni post partita, così rispondiamo a chi ci sta scrivendo, noi ci aspettiamo il deferimento di Montari per aver detto che l'arbitro finiva sottoterra. È il prima e un conto è il dopo. Sul prima era grottesca, sul dopo ci aspettiamo un deferimento e anche se necessario una squalifica. però la riflessione è che basta abbassare forse un poco la tensione, basta abbassare forse un poco la guardia e poi riemerge tutto, perché questa è stata davvero una settimana da questo punto di vista da dimenticare, da cancellare o forse da non dimenticare, perché tra l'altro alcune cose sono davvero preoccupanti, compresa quella successa a Roma e anche il modo in cui viene giudicata, abbiamo sentito da parte della Lazio, ma in generale insomma questo confine labile tra gli sfottò e invece un gesto preoccupante a prescindere. Matteo e poi Pier. Ma secondo me comunque quell'episodio lì ha contorni inquietanti, comunque sia, cioè non può finire sotto la categoria classificato come sfottò di cattivo gusto, è molto di più ed è molto peggio. Purtroppo anche qui, come vale per i protagonisti, diciamo quelli che vanno in campo, e vale ovviamente anche per quelli che stanno sulle tribune, secondo me c'è stata una deriva totale in questi anni, c'è stato anche proprio ormai, come dire, un subentrare dell'idea che comunque i propri calciatori debbano essere presi di mira se le cose non vanno. Allora, ricordo che banalmente tre squadre a fine stagione devono essere retrocesse, ricordo che vince il campionato soltanto una squadra, dopodiché tutti gli altri non possono sfogare frustrazione. Cioè io ho l'impressione che, non la voglio buttare sul sociologico, ma il tasso di frustrazione che sta aumentando molto nel paese per tante ragioni, trovi lì il canale nel calcio, il canale per sfogarlo. Quindi tu vuoi che la tua squadra vinca sempre e non accetti comunque il concetto, il pensiero della sconfitta, che invece esiste e fa parte dello sport, per cui contestazioni, per cui pugni ai giocatori, per cui macchine bruciate ai presidenti. Io credo che questo tipo di clima appartenga a un altro mondo, che magari è più quello della criminalità, è più quello di altri tipi di devianze sociali. Purtroppo il calcio oggi ci sta dentro, c'è finito dentro, e la cosa che mi fa un po' tristezza, tu facevi accenno al comunicato dei club, è il sottostare dei club, cioè la paura alle minacce, insomma alla pressione, alle ingerenze che ci sono, per cui ogni presidente, invece di, come dire, andare a parlare sul merito, tende sempre a difendere la piazza. L'ha fatto anche da noi Giudini qualche giorno fa, secondo me sbagliando nella vicenda di Montari, però la tendenza di molti presidenti appunto è quella di difendere in primis la famosa e mitologica piazza. E devo dire che questo è un quadro che condivido, assolutamente fosco, ci sono anche delle cose invece incoraggianti. Devo dire che il post di Buffon, ancora prima quello di Marchisio, ma quello di Buffon secondo me con una forza, con una veemenza ancora maggiore, perché insomma le parole sono importanti, come diceva Andrea Moretti, no? Quindi Buffon ha detto delle cose, sono più morti dei morti, insomma ha usato delle espressioni molto chiare, molto precise e abbastanza irrituali per un calciatore, proprio per quello che diceva Matteo, perché quasi sempre si pensa al quieto vivere, quindi insomma Buffon poteva cavarsela con un generico post di rispetto per le vittime di Superga, invece è andato oltre, ha preso di petto quei quattro cretini che hanno fatto le scritte. Questo mi ha dato veramente grande, grande speranza e mi è sembrato veramente gigantesco in questo Buffon. Per quanto riguarda un altro piccolo segnale, secondo me, della gravità della situazione di Roma, che sicuramente non è tollerabile, la cosa dei manichini è ovviamente disgustosa, però devo dire che nel momento nel quale c'è stato il picco del disgusto, la Curva Nord ha fatto un comunicato che comunque, per quella che è la prassi, del rapporto tra istituzioni, eccetera, è comunque un piccolo passo avanti, nel senso che ha tenuto a chiarire il fatto che non c'era assolutamente volontà di minacciare nessuno, che era uno sfottò ovviamente stonato, questo lo aggiungo io, ovviamente è irricevibile, però insomma quantomeno ha cercato, e quel comunicato lì sarebbe stato perfetto se avesse, ha detto non ci scusiamo, se si fossero scusati sarebbe stato un comunicato perfetto, e questo non è stato, però insomma secondo me lì è stato fatto un passo avanti in quelle ore, tra l'altro anche molto concitate, perché non si capiva realmente, e sembrava sì, perché se fossero state minacce, diciamolo, esatto, fuori dall'ipocrisia, quindi, se fossero state minacce dei tifosi della Roma, i giocatori della Roma, sarebbe stato più grave, no, io dico, non che non dico, lo sia. Dico anche una cosa, che se tu ti fai dei video, evidentemente se ti fai dei video per fare una roba del genere vuol dire che non ti rendi conto di quello che stai facendo, e che forse è anche più grave. Però insomma, voglio dirti, il punto di partenza, visto che si sono filmati, si sono fatti i video, si vedevano le facce, è che questa roba l'abbiamo fatta veramente con lo spirito goliardico. Ovviamente è uno spirito che non è accettabile, perché, ma neanche per scherzo si può accettare l'immagine di qualcuno che viene impiccato. Quindi proprio di che stiamo parlando, però secondo me la genuinità dato un minimo di speranza sul fatto che certi tabù si possono abbattere. Certo, Buffon è un grande, Buffon è uno che ha fatto poche ore prima Buffon è uno che può permetterselo per mille motivi, Matteo Marani compreso il rapporto che ha con i tifosi della Juve. Ti lascio la chiusura e poi ti saluto. Dice parole di Buffon. Io credo che parole di Buffon, come diceva giustamente Pier, sono parole giuste e purtroppo mi viene da dire un po' inusuali. Cioè, noi siamo tutti sorpresi dal fatto che un giocatore intervenga in questa maniera a difesa della memoria del grande Torino e quasi ce ne sorprendiamo, quando invece dovrebbe essere ovviamente la normalità. Però hanno un grandissimo significato, sono d'accordo, l'ho ricordato qualche giorno fa in studio. Cioè, il grande Torino, infangare la memoria del grande Torino non è solo infangare quella di una grande, grandissima squadra, ma anche un po' quello di tutto il calcio italiano. E quella è stata la squadra degli italiani nel dopoguerra, è stata la squadra di tutti, è stata la squadra che ha dato 10 undicesimi alla nazionale nella famosa partita contro l'Ungheria del 47, è stata la squadra mito che ha permesso a un paese in ginocchio dopo la guerra di rimettersi in piedi. Proprio per la passione, insieme al ciclismo, sono stati due grandi fenomeni sportivi che hanno riacceso l'Italia dopo la guerra. E quindi è una, secondo me, una colpa doppia. Detto questo, sottoscrivo in pieno, cioè credo anch'io che le parole Buffon siano parole fortissime, soprattutto che vadano nell'indirizzo verso i propri tifosi, cosa che raramente capita, per quello che dicevo prima, perché in genere si cerca di trovare sempre una giustificazione ai propri tifosi, ovviamente alle parti minoritarie, alle piccole frange che si macchiano di questi episodi. Invece Buffon non l'ha fatto e ha preso nettamente a distanza anche da quella che è la piccolissima parte dei tifosi infrange da questo punto di vista un muro. Grazie a Matteo Marani. Grazie a voi. Grazie a Matteo Marani. Traffico, torniamo subito. Siete tutti convocati. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Tutti convocati. Che ci sia delusione è normale, è anche giusta, come facciamo a non essere consapevoli e responsabili delle nostre situazioni. I risultati nell'ultimo periodo sono negativi. Oggi abbiamo giocato sicuramente per fare la partita, sicuramente per condurla, rischiando poco, ma poi quando hai avuto le occasioni e non riesci a segnare, dopo sono partite che diventano difficili e gli episodi ci hanno condannato. Lei sente di avere ancora il controllo della situazione? Non è questione di parlare dopo lo spogliatoio o dopo la partita o nello spogliatoio, è questione che siamo tutti convinti che possiamo fare di più e che dobbiamo fare di più e che la partita l'abbiamo persa perché negli episodi non abbiamo messo quell'attenzione necessaria. È chiaro che mancano ancora 3 partite e non vinciamo troppo tempo, purtroppo oggi era l'unico risultato che volevamo e non ci siamo riusciti. Ho fatto risentire Stefano Pioli mezz'oretta fa ai microfoni di Premium Sport, ha detto anche adesso dobbiamo chiudere con dignità ed orgoglio la stagione. Saluto Riccardo Ferri, ciao Riccardo. Ciao, buon pomeriggio. Volevo sapere da te che impressione ti ha fatto l'Inter oggi e che impressione anche ti ha fatto sentire Pioli fare questa analisi e questa lettura della partita di oggi a Marassi, del momento dell'Inter. Ma l'ho vissuta in diretta perché comunque ero ospite a Mediaset Premium, quindi ho percepito una sensazione di sconforto, perché comunque, come dicevo io a lui ho rivolto una domanda molto, molto precisa, cioè che c'è stata sicuramente tanta attenzione rispetto alle partite precedenti da parte di tutti. Poi quando è venuta a mancare l'attenzione, insomma, sono emersi di nuovo i problemi tecnici, cioè quelli delle marcature preventive, quelli di lasciare troppo spazio di iniziativa alla squadra avversaria e subire magari alcune situazioni che si possono tranquillamente evitare, visto, e mi riferisco chiaramente al gol del Genoa, dove Veloso prende palla in mezzo alle linee, porta palla fino ad arrivare poi al limite dell'area e in maniera molto semplice andare a calciare in maniera violenta. Poi dopo c'è stata la scivolata di Andreoli che ha condizionato il tutto, però alla base c'è sicuramente un errore di posizionamento, errori che si ripetono quando l'Inter abbassa l'attenzione. Ma il problema qual è? Cioè, aiutatemi a capire, cioè, i giocatori dell'Inter sono scarsi, l'allenatore è scarso. Manca, come diceva Ciccio Valenti, mancano gli attributi, per usare un eufemismo. Ma sono tutte cose che si possono dire, ma non devono essere poi sorrette da un'analisi corretta, un'analisi obiettiva, oggettiva. Ti ripeto, manca l'attenzione che c'era in precedenza, dove l'Inter aveva un trend positivo, dove l'Inter quando perdeva palla si ripiegava tutta dietro la linea della palla, dove tutti si sacrificavano per cercare di recuperarla il più in fretta possibile. attualmente è un Inter che va a una velocità diversa e subisce spesso gli avversari che si chiamano Genoa, che si chiamano Napoli, Fiorentina, indipendentemente dalla qualità, subisce troppo l'avversario e lascia troppa iniziativa. Questa è una cosa che ti porta poi a dover purtroppo fare delle analisi nel finale della partita e cercare di trovare delle spiegazioni che vanno al di là di ogni considerazione. Io non credo che i giocatori siano scarsi e Pioli sia scarso. Pioli ha ereditato una situazione difficilissima, è riuscito a entrare nello spogliatoio in maniera concreta, a dare una fisionomia alla squadra, a rivitalizzare alcuni giocatori importanti, e nell'ultimo periodo purtroppo però è come se il motore si sia spento. Si è fermato tutto. Questi giocatori verso l'obiettivo della Champions League, e qui mi riallaccio alla dichiarazione che ha fatto D'Ambrosio, verso quell'obiettivo c'è stato un po' un rilassamento totale. Sì, hanno staccato la spina. Pierluigi, esatto. Io non so neanche se questo sia giustificabile, anzi non è giustificabile. Ma non è giustificabile, perché allora che l'Europa League non sia la Champions, lo diciamo tutti, io penso che lo sappiamo, lo sappiamo da sempre tutti, e non c'è niente da fare, nel senso che abbiamo, è una cosa anche molto italiana secondo me. È molto grave, perché l'Europa League andrebbe affrontata con ben altro spirito, quindi da questo punto di vista non ci sono discussioni. Però ecco che un gruppo di giocatori che comunque oltretutto dovrebbe, insomma, sentirsi tra virgolette un po' in colpa, no? Comunque non pienamente soddisfatta della propria stagione, molli così la spina, stacchi così la spina, è veramente, veramente incredibile. Insomma, io lo sai quello che penso, e oggi faccio anche un po' quello che dalle aree, io ho sempre pensato, lo dico da mesi, che per esempio la Lazio fosse più forte delle milanesi, che ci sia un po' di sopravvalutazione in generale dell'Inter, quella famosa prima fila della griglia di partenza della Gazzetta dello Sport, io non l'ho mai condivisa, l'ho detto mille volte, quindi per me non è quindi è abbastanza, però, la fotografia reale quella di oggi, però no. L'Inter non arriva, sembra esagerato, per me è la quinta forza del campionato. Vi posso chiedere se basta un allenatore giusto? Facciamo un nome, poi non so se sarà quello. Conte, basta Conte per prendere questo gruppo? 2-3 innesti fatti bene, l'anno prossimo l'Inter compete per lo scudetto. Riccardo Ferri, poi Pierluigi Pardo. No, è utopia. Un allenatore da solo non può fare nulla. Io credo che prima di tutto bisogna andare un attimino a cercare di sistemare anche i quadri societari, perché indubbiamente a me è sembrato quest'anno che Ausilio fosse veramente un po' solo, e a mio avviso ha preso anche delle posizioni che a volte non competevano allo stesso Ausilio, quindi credo che ci vogliono dei riferimenti importanti in società. Detto questo, io non credo che un allenatore possa stravolgere senza avere il materiale, come uno chef che arriva a casa mia, apre il frigo, anche se è uno chef stellato, sì, però adattarsi un po' al piatto che potrà fare. Qui mancano proprio gli ingredienti. Mancano un po' di ingredienti, e poi chiaramente con una programmazione si può arrivare. Io credo, guarda, semplicemente come ha fatto la Juventus in passato, se l'Inter vuole, certo, mettersi in competizione con la Juventus è impossibile in questo momento, bisogna fare un programma ben preciso di qualche anno, ma in contrapposizione a Roma, alla Lazio, al Napoli, secondo me lo può fare, andando a impoverire queste società, cioè cercando di andare a prendere giocatori importanti che possono migliorare la propria qualità e sminuire quella degli avversari. Cioè, si deve comprare l'avversario, pratica. Grazie, Riccardo. Comprare nel senso sul mercato. Chiaramente fair play permettendo. Certo, quella cosa lì. Grazie, Riccardo. Pier. No, dico che sembra questa la linea, nel senso che si parla molto di Nainggolan, di Parolas, per esempio. Cioè, io credo che l'Inter o anche lo stesso Mertens, questa cosa che dice Riccardo Ferri è giustissima. Cioè, a parte che poi i giocatori che paghi è ovvio che ti prendi, però dai anche dei soldi, quindi della possibilità poi di investire agli altri. Bisogna sempre capire se la cifra è congrua oppure no, e poi il lavoro che verrà fatto. Ma io penso che Conte con 4-5 grandi acquisti possa portare la squadra a livelli molto importanti, probabilmente non a livello della Juve, perché la Juve ha un'abitudine in questo momento nettamente superiore, però e penso anche, questa è una cosa poco elegante da dire, penso anche che non giocare l'Europa League, con tutto che l'Europa League è per me importantissima, perché poi il re ranking non è soltanto... Possa essere un vantaggio, tu dici. Ma il ranking noi per tanti anni l'abbiamo considerato ovviamente come paese, ma il ranking delle squadre conta. Cioè la Roma, certo. La Roma becca il Porto quest'anno perché non è testa di serie. Se non è testa di serie magari becchiamo l'avversario un po' più facile. Quindi è importantissimo avere continuità in Europa. Però detto questo, una stagione con Conte come quella che ha vissuto quest'anno il Chelsea senza coppe europee, insomma è una... può essere un vantaggio. Sì, può essere un vantaggio. Grazie Piera, domani. Ciao. Ti risparmio come è andata la schedina, ma lo diciamo domani dopo il GR delle 14, quindi tutti collegati. Giovanni da Napoli, 800 24 00 24. Giovanni. Salve Giovanni, vai. Vi seguo tutti i giorni e nello specifico seguo te la domenica. Purtroppo oggi mi sono addormentato perché poi le partite del pomeriggio, io non preferisco le partite al pomeriggio perché sai la domenica, il vino e quant'altro. Dopo il pranzo si fa fatica. Sì, io penso che tu soprattutto sei uno dei giornalisti più bravi d'Italia. Vai però Giovanni, se no pensano che sei parente mio. Ti seguo da sempre. Preparatissimo, soprattutto quello che studia di più, sicuro. Vai. Volevo sapere cosa ne pensavi del fallo di Acqua, perché io ti dico la mia, perché non ti ho ascoltato prima, perché ti dico la mia, per me ha fatto un'entrata scomposta. Se fosse un calciatore della mia squadra mi sarei arrabbiato con lui, perché ha fatto un'entrata scomposta. A termini di regolamento l'ammonizione è il meno possibile. Voglio aggiungere, finisce, poi voglio sentire la tua risposta, cosa ne pensi? All'andata Mandžukić fa un fallo molto meno grave e viene ammonito, la Gazzetta dice... Fa un fallo simile? Viene ammonito, la Gazzetta pubblica sul giornale, dice è un fallo pericoloso, un'entrata pericolosa che viene ammonito e non ci sta nessuno alle quale di allora io penso, e l'ho detto anche prima, molto semplicemente questo, che il secondo intervento, quello che porta al secondo cartellino giallo, è passibile di essere discusso, discutibile, anche se evidentemente prende la palla e anche con un certo anticipo, e questo ha un suo peso. Mi ha raccontato ieri sera un arbitro che il secondo giallo si dà se si merita in maniera assoluta e indiscutibile un secondo giallo che porta all'espulsione, e questo non è il caso. In ogni caso io aggiungo che anche il primo giallo era molto discutibile, quindi complessivamente l'espulsione di Acqua non ci stava. Questo è il mio pensiero. Grazie comunque Giovanni, e adesso ci fermiamo, torniamo, c'è Demetrio Albertini, parliamo di Totti e anche di Milan-Roma, ore 20:45. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. In quel caso lì siamo sicuramente ingombranti, perché quello che succede per una bandiera a fine carriera è che il tuo progetto di futuro debba coincidere col progetto della società, e questo purtroppo non sempre succede. Credo che sia un momento di grande riflessione per Francesco, di un pizzico di nervosismo sicuramente, anche perché sta giocando molto meno rispetto all'anno scorso, e solo lui poi alla fine, quando parlerà, ci potrà dire qualcosa in più. Sulla gestione di Totti non lo so, non sono lì, non sento Francesco, non gli chiedo nulla nemmeno domani. Sicuramente qualsiasi fosse stata la scelta sarebbe stata chiacchierata, perché Totti è un'icona, Totti è il simbolo di Roma, della romanità, ha fatto tanto per calcio non solo romano ma anche nazionale, internazionale, vincendo un mondiale, quindi ovvio che sia chiacchierato, ma ci è anche abituato. Maglia non muore, secondo me togliere la maglia è mortificazione, non è esaltazione, è proprio l'opposto, cioè prima di Totti l'aveva Giannini e poi è venuto Totti, è un modo di ragionare vecchio, anzi ribattiamola la cosa, si vuol ricordare Totti bene? Si scrive in tutte le maglie, numero 10 piccolino con la scritta sotto Totti. Maldini, Del Piero, Montella e Spalletti su Totti che a fine stagione lascia. Questa è stata la settimana in cui di fatto è stato confermato ciò che era già stato detto l'anno scorso. Saluto Demetrio Albertini. Ciao Demetrio. Ciao a tutti. Mi prendo il messaggio che mi ha mandato un tifoso milanista: stasera sarò San Siro, spero che Spalletti faccia entrare Totti per rendergli omaggio, l'omaggio che merita. Grande campione, rimane solo Buffon dopo di lui. Io spero che succeda davvero, Demetrio. Quello che entra in campo? Sì. Sì, assolutamente, me lo auguro anch'io, me lo auguro di vederlo nei minuti che potrà fare non solo la passerella, ma poter giocare uno spezzone in uno stadio che gli ha sempre dato merito e gloria di quello che è, del grande campione che è. San Siro, sia i tifosi del Milan che dell'Inter l'hanno sempre applaudito. L'hanno anche sempre sofferto, ma è giusto così. Poi si rende l'onore delle armi al grande campione che tu vedi per l'ultima volta. Non è mai il momento giusto, no, Demetrio, per questi grandi campioni? Io non so qual è il tuo pensiero. Ma innanzitutto Francesco deve ponderare quello che deve essere il suo futuro, fino a quando è in linea con quello della società, in una squadra e quello che è data, continuare. E poi dopo per il futuro, quello che vorrà fare, perché deve scegliere lui se continuare a giocare un'altra esperienza e fare un'altra esperienza come ha già fatto qualcun altro, vedi Del Piero, ho sentito parlare prima, vedi Pirlo, o se no invece smettere come ha fatto Paolo e poi intraprendere quello che vorrà fare. Francesco per Roma. È vero che le bandiere sono sempre scomode quando smettono. L'hai sentito, l'ha detto prima Maldini, quando smettiamo noi bandiere siamo sempre scomodi. Penso di sì. All'inizio sì, ci deve essere un momento di cuscinetto che può dare la possibilità di inserirsi in un contesto, chiamiamolo lavorativo, diverso. E come detto, i piani devono essere in sincronia con quelli sia del giocatore, dell'ex calciatore o comunque della bandiera, sia di quello della società. All'inizio sì, questo è un dato di fatto, qualche volta le bandiere sono scomode per qualche dirigente, quello sì. Che poi non è semplice dire smetto di giocare, appendo gli scarpini al chiodo. Adesso, fare la carriera da allenatore è un altro discorso, ma fare la carriera ad esempio da dirigente sportivo, lo chiedo a te perché tu il dirigente sportivo lo hai fatto davvero una volta smessi i panni del calciatore, però poi non è semplice, le aspettative possono essere alte sia da parte dei tifosi, della società, del grande campione, e poi non è detto che uno sia campione anche fuori. No, è un po' come essere allenatore, un conto è essere un grande calciatore, non sempre i grandi calciatori sono diventati grandi allenatori, perché un conto è saper tirare il pallone, è un conto è farlo tirare bene a qualcun altro con le parole, con gli schemi, la gestione, e così anche da dirigente, cioè è un altro tipo di lavoro, un altro tipo di approccio, ci vuole consapevolezza di iniziare un altro cammino, non si può iniziare solo esclusivamente da dove si è lasciato con tutto quello che uno ha fatto sul campo, visto che stiamo parlando di bandiere, stiamo parlando quindi di grandissimi calciatori. Però è anche vero che la bandiera, il calciatore, mantiene un senso di appartenenza nella società e nella squadra che non son solo utili, ma sono quasi necessari. Soprattutto in un'epoca in cui fatalmente il calcio di oggi porta ad avere sempre meno bandiere in campo e sempre meno trade union tra la passione dei tifosi, esatto, e le squadre e la loro senso di continuità. Sì, bisogna anche capire che tipo di persona o per il tipo di ruolo uno gli vuole dare alla bandiera. È troppo riduttivo pensare solo alla bandiera. Sinceramente, pensare a Francesco Totti come bandiera della Roma, punto e basta, cioè, mi sembra un po' riduttivo per lui. Poterlo pensare invece che possa incidere, prima di tutto crescere, no? Perché uno deve crescere come dirigente, però con la possibilità di poter incidere, questo è quello che magari tante volte fa allontanare le esigenze di una società e la possibilità di poter operare fin dall'inizio per una bandiera che smette. Chi sta peggio stasera guardando verso questo Milan-Roma? Guarda, io credo che oggi sia la partita decisiva per tutte e due per far sì che si possa dire che la Roma ha fatto un buon campionato, che farà ancora questo fine campionato, e la stessa cosa si può dire per il Milan. Quindi è veramente una finale per giocarsi l'andamento di questa stagione, perché tutte e due hanno espresso un buon calcio sia il Milan che la Roma, però non con continuità a tratti. I punti e gli obiettivi erano diversi, e oggi chi perde diventa veramente. Ma il terzo posto per la Roma sarebbe un fallimento? Non ti chiedo il settimo per il Milan, perché secondo me non lo sarebbe a prescindere, e comunque per come va l'Inter è complicato che il Milan arrivi settimo, ma il terzo della Roma, insomma, quando una squadra è praticamente ferma, l'altra basta che cammini e in qualche modo arriva sesta, guarda, con merito, tra l'altro, perché voglio dire, la stagione del Milan è stata strana da portare avanti. Guarda, per quanto riguarda il Milan, l'ho già detto, quest'anno quello che c'è del Milan è che, anche se ha quasi gli stessi punti degli ultimi anni, no? Degli ultimi campionati, però ha fatto vivere i tifosi del Milan, e quindi è fatto anche di questo il calcio, alcuni momenti dove si poteva pensare in grande, no? Dove fino a dicembre era sopra le aspettative, e quindi va dato merito, non solo guardare solo i punti di classifica, ma anche le emozioni che ci ha dato in questo campionato, e quest'anno il Milan ci ha dato come emozioni, secondo me, no? E in più ha valorizzato alcuni giovani, ha valorizzato alcuni giocatori nuovi, vedi Suso, vedi Deulofeu, quindi oltre ai giovani cresciuti nel settore giovanile. Sulla Roma, su Spalletti, sarebbe un fallimento il terzo posto? Lui ieri ha detto non sarebbe un fallimento. Ecco, in Italia pensiamo sempre agli estremi, no? Un grande trionfo, un grande fallimento. Sono le vie di mezzo, che poi dopo c'è il rovescio della medaglia, dipende uno da come lo vuol vedere. Di certo la Roma, il suo scudetto sarebbe quello di arrivare secondi. Sì, anche perché la prima, ma su questa ragione Spalletti quest'anno era ingiocabile, almeno per lo scudetto, e la prima è la Juventus. Grazie Demetrio. Grazie a voi, ciao. Grazie Demetrio Albertini. Il traffico, poi abbiamo i motori e il Giro d'Italia. Intanto Spal 0, Provercelli 0, decimo minuto del secondo tempo. Se la Spal vince è in Serie A e ci torna, non pratica la Serie A dal 1968. Questa sarebbe davvero una bella storia da raccontare, ma siamo ancora 0-0, mancano 35 minuti, traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta. Tutti convocati. La sensazione è bestiale, sono contentissimo, vincere qui a Jerez, una pista che mi piace così tanto, davanti a tutti questi tifosi, mi sono concentrato molto e sono partito bene, e dopo mi sono lasciato e è andato molto molto bene. Mi sentiva bene, mi sentiva molto forte come al practice e tutto, ma comunque oggi il caldo era tantissimo, era una condizione ideale pure per Dani. Quando ho visto che non calava dico dai, adesso spingo, e quasi cado una volta, dopo è ritornato un po' a spingere, quasi cado un'altra volta e ho detto dai, secondo posto è perfetto. Beh, questo risultato sale come una vittoria. Abbiamo sofferto molto, no? Sofferto molto la mancanza di risultati, la mancanza di velocità, le critiche delle persone che hanno parlato troppo presto, no? E no, non mi hanno lasciato tempo per l'adattazione. Hanno detto che era impossibile che un pilota pulito come io fosse competitivo con la Ducati. E questo risultato va un po' dedicato a queste persone, no? Che hanno parlato un po' presto, no? Questi erano Pedrosa, Marquez e Lorenzo, ovvero il podio del Gran Premio di Spagna. Roberto Ungaro, ciao. Ciao Giovanni. Brevissimo antipasto, poi domani dopo alle 14, dopo il GR delle 14, tutta l'analisi sul Gran Premio di Jerez de la Frontera. Trionfo spagnolo, Valentino Rossi un calvario. Come si può sintetizzare la domenica? Honda Yamaha 1-0 palla al centro di Pedrosa, lo si sapeva. Paul, quando in forma lui gli gira tutto bene, giusto, non ce n'è per nessuno, neanche per il suo compagno di squadra, ma assenti ingiustificate Yamaha, hanno avuto troppi problemi con le gomme, devono trovare la quadra, soprattutto Valentino, perché adesso si è ridotto il distacco e i primi quattro ci sono solo 10 punti in campionato, quindi diventa più affascinante per noi, perché Pedrosa entra anche lui in corsa e soprattutto quindi lo spettacolo aumenta, però per Valentino si fa più dura, cioè deve trovare la quadra per questa. Sì, un decimo posto non era preventivabile. No, ma neanche il sesto di Vignale, se vogliamo vedere, perché comunque questa era una pista Yamaha, quindi la Honda ha sempre fatto fatica, non è la pista di Marquez, ma comunque la Honda qua non è mai emersa, e invece si sono ribaltate le cose, buon per noi e per il campionato, però si fa più difficile il titolo di Vale, perché non può più star lì a aspettare gli altri che litigano. Qui c'è da reagire, ma soprattutto trovare la soluzione con le gomme, tant'è che si fermeranno domani dopo 2 giorni, ma è stato confermato che anche dopo Le Mans, dopo la Francia, si fermeranno ancora a provare. E comunque fa bene vedere anche una Ducati a podio finalmente. Sì, terzo posto Lorenzo, quinto Dovizioso. L'ha detto, questa volta è stato Lorenzo la prima Ducati e non il solito Dovizioso, e visto come ha risposto così con piglio Lorenzo, hanno parlato troppo presto per darmi finito, e lui ha reagito, ha risposto, comunque una bella reazione. La cosa che mi ha colpito è, te lo dico, sono le lacrime di Dani sul podio quando ha preso la coppa del primo. Dani se lo merita, non ha mai vinto un titolo in MotoGP, è sempre stato lì, ha avuto tanta sfortuna, si è rotto tanto. Secondo me nel cuore di tutti il piccolo Dani, e vedere i suoi occhi, la sua espressione di sofferenza e per la concentrazione prima della gara e poi le lacrime sul podio è stato un bel momento. Sì, è una delle immagini belle di questa domenica. Sì, domani l'appuntamento per analizzare tutto. Come sul sempre. Gran Premio di Spagna. Grazie Roberto. Ciao Giovanni, un saluto a tutti. Andiamo al Giro d'Italia invece. Pier Augusto Stagi, ciao Pier. Sono qui, ciao, buon pomeriggio a tutti. Oggi terza tappa Tortolì-Cagliari per velocisti, anche se in realtà volata c'è stata ma ristretta. Sì, c'è stato prima un grande spettacolo. Oggi il vero protagonista è stato il vento, fortissimo, credetemi, i corridori facevano a tratti fatica a restare in equilibrio, anche le moto hanno avuto grandi difficoltà. A 10 km dal traguardo è accaduto quello che un po' tutti si attendevano, soprattutto da parte degli uomini più avvezzi ad affrontare e a domare il vento, che è la Quickstep, una formazione belga, che è appunto la formazione di Fernando Gaviria. 10 km si sono messi davanti, hanno avuto l'ordine dal loro direttore sportivo, che tra l'altro è un italiano, Davide Bramati, e hanno fatto il cosiddetto ventaglio, sono riusciti a strappare il gruppo, hanno portato via un gruppetto di una decina di unità con dentro il nostro Giacomo Nizzolo, c'era anche il campione di Germania maglia rosa André Greipel, che però poi è stato fermato da un guasto meccanico, e quindi la volata è stata a ranghi ristretti con Gaviria che ha vinto molto facilmente e il nostro Giacomo Nizzolo che si è dovuto accontentare della terza moneta. Quindi tappa e maglia per Gaviria, che adesso ha 9 secondi di vantaggio su Greipel, e domani si riposa, questa sera si naviga, il giro si trasferisce in Sicilia, lascia dopo 3 giornate bellissime, molto difficili ma molto spettacolare la Sardegna, e ricominciamo, diciamo, la narrazione ricomincerà da martedì dalla Sicilia con il primo vero arrivo in salita, quindi tastiamo a tutti gli effetti. Avremo anche qualche risposta sui big. Intanto un big, oggi la notizia che un big piccolo ma comunque che era venuto qua al Giro d'Italia per provare a fare classifica, quindi arrivare nella top 10, Ron Dennis della BNC ha perso 5 minuti e 22 e quindi addio sogni di gloria, sono bastati 3 giorni per così fugare ogni dubbio. E poi anche Zaccari a qualche secondo di distacco di troppo, di sicuro comunque vedremo all'opera grandi nomi, a cominciare da Nairo Quintana, che chiaramente è lo scalatore puro per eccellenza, e questo giro è durissimo, tantissima salita e quindi si addice come non mai, però noi disponiamo di un Vincenzo Nibali che adesso in classifica generale è 12esimo, quindi è lì, è un passista scalatore, non è puro, ma è uno che si arrangia da tutte le parti. Come dice lui, non sono super da nessuna parte, ma sono molto bravo un po' in tutto. Quindi speriamo che quel suo modo di essere completo possa essere sufficiente per contrastare invece un Quintana che invece è un vero fuoriclasse quando la strada si impegna. Vedremo già qualcosa martedì sull'Etna e poi ci sarà anche il blockout, quindi in pochi giorni cominceremo a capire quale sarà la prime fisionomia di questo Giro d'Italia. Cefalù Etna 181 km con i 18 finali al 6,5%, tutto questo martedì, perché domani, come detto, si riposa, il Giro va dalla Sardegna alla Sicilia. Grazie Piero Augusto. Grazie a voi, buona serata. Oggi a Cagliari ha vinto Gaviria, che è anche la nuova maglia gialla. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Roberta Frisani, Andrea Roccabella, che si sono alternati in regia. C'è stato Andro Merco con Io sono incazzato come un rinoceronte. Sì. No. Per cosa? No, sono incazzato come un'iguana. Sì, come un'iguana? Sono sbagliato. Arrabbiato. Sì, no, arrabbiato. Incazzato come un macaco. Per espulsione. Sì. Ah no, è incazzato come una iena. Allora, questo volevo dire. Vabbè, ma cosa devo fare? Devo dare un bacio a Guardalini? No, devo usare la lingua. Però magari evitare dovevo di albicocare. No, evitare di bananare. Insultarlo. Ma c'era l'espulsione o no? C'era. Senti Capuano, io tu hai bisogno, sei peggio di Viali, sei peggio di Viali, ci vuole la bacchetta di Ceriputi. Ci sentiamo domenica prossima, invece di Tutti Convocati, torna domani con Carlo Genta alle 14, ciao!